La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30, primi e 14 secondi, qui in diretta da Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast, come sempre, Oscar Giannino. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, e devo dire che la trasmissione di oggi nasce proprio dal fatto che alcuni magistrati onorari, giudici di pace, che sono rimasti in diretto contatto con me quando in passato abbiamo già fatto due trasmissioni, una l'anno scorso, una l'anno prima ancora, dedicata al tema del loro fondamentale impegno nella giustizia italiana, mi hanno richiamato l'attenzione, e hanno ragione, su che cosa è avvenuto con il decreto che completa, il decreto delegato che completa la riforma della magistratura onoraria, passato in Consiglio dei Ministri venerdì scorso, e in ragione del quale i rappresentanti della magistratura onoraria, dei giudici di pace, hanno dichiarato, adesso lo vedremo meglio, un'agitazione. Io mi rivolgo in particolare, cari avvocati in ascolto, a voi, nella speranza che qualcuno ci chiami all'800240024, perché voi più di tutti sapete, a differenza dei cittadini comuni che magari non hanno un'idea di come funziona davvero la nostra giustizia e di quale sia l'importanza fondamentale che per lo svolgimento di tutto ciò che serve alla giustizia è rappresentato dall'apporto di migliaia e migliaia di magistrati onorari, di giudici di pace con competenze fondamentali nel civile, per l'immigrazione e così via. Vogliate testimoniare telefonandoci dicendo come la pensate rispetto a come il governo è intervenuto su questa materia. Ve lo dico subito: è intervenuto fregandosene allegramente del richiamo che da anni ci viene dalla, per alcuni, odiatissima, ma in questo caso direi proprio di no, Commissione Europea, che ci ha chiesto, come nella scuola, ma nella scuola infornate subito di decine e decine e decine di migliaia di insegnanti, come ci ha chiesto nella scuola di porre termine all'abuso di rapporti a termine di precariato, così aveva fatto con altrettanta chiarezza più volte in passato per quello che riguarda la magistratura onoraria e giudici di pace. Peccato che da questo orecchio invece il governo non ci abbia sentito. Quindi, cari avvocati, se voi telefonate e ci dite cosa pensate, se davvero sia giusto e condivisibile l'intervento del governo rispetto a questo pilastro fondamentale, senza di cui si entra in denegata giustizia immediatamente, perché adesso con l'ospite vi spiegheremo quali sono le competenze e in termini di percentuali che cosa vuol dire sul totale delle cause italiane, a maggior ragione in un paese in cui l'amministrazione giudiziaria è impegnata, sia pur sotto organico, anche per quello che riguarda i magistrati e gli amministrativi di ruolo addetti alla giustizia, a smaltire e a ridurre le pendenze accumulate per il civile e per il penale. Però, detto tutto questo, a me pare che invece qui non ci siamo proprio, sia più che giustificata quindi la protesta. Allora, per un pubblico non di specialisti, quindi abbiamo chiamato oggi il presidente nazionale dell'Unione Nazionale, appunto, dei giudici di pace, la dottoressa Maria Flora Di Giovanni, che ringrazio di essersi resa disponibile. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Grazie a lei per questo spazio. No, e si figuri. Allora, spieghiamo, ripeto, il nostro è un pubblico generalista, quindi non di addetti ai lavori. Ci sono naturalmente anche avvocati, ci sono magistrati, ci sono uditori, eccetera, eccetera. Però spieghiamo un secondo nel nostro ordinamento qual è di preciso la funzione e quanti sono i magistrati onorari, i giudici di pace, che incombenze hanno e che mole di lavoro svolgono. Sì, è presto detto, al giudice di pace è affidato praticamente il primo grado di giudizio. Attualmente siamo 1200 circa in tutta Italia e abbiamo competenze per cause di valore fino a 5.000 euro per beni mobili, per incidenti stradali fino a 20.000 euro. E abbiamo la competenza sull'immigrazione, quindi le convalide di espulsione e i ricorsi contro le espulsioni del prefetto. abbiamo competenze funzionali nel penale, insomma abbiamo la competenza, possiamo dire, un po' più allargata rispetto a quella che era la competenza del pretore prima che fosse soppresso. Esatto. Davanti a noi c'è qualcosa in più del 50% delle cause iscritte su tutto il territorio nazionale nella materia del civile. Se consideriamo anche i GOT, cioè i giudici onorari di tribunale, la magistratura onoraria fra giudici di pace e GOT porta avanti circa l'80% delle cause. Ecco. Se poi ci mettiamo anche il penale, dove ci sono i VPO che quasi esclusivamente vanno in udienza anche per processi molto molto importanti, si può dire che noi abbiamo davanti a noi il 90% delle cause. Per quanto riguarda la magistratura onoraria nel penale, perché fra i GOT e i giudici di pace giudicanti nel penale, assommati ai VPO, cioè ai vice procuratori onorari che vanno in udienza, praticamente il penale nel 90% è gestito dalla magistratura onoraria, quindi si capisce bene che ci sarebbe un blocco totale. Ecco. Se venisse meno questa forza. Ecco, questo lo ripeto, avete capito, le procedure sono 80% civile, 90% penale. Stiamo parlando di gran lunga della mole prioritaria procedimenti che passa attraverso i magistrati onorari e i giudici di pace. In più io devo aggiungere che attualmente noi siamo i giudici del secondo concorso, perché il concorso noi l'abbiamo fatto, è stato un concorso a titoli. Dopodiché ci sono stati 6 mesi in cui siamo stati esaminati e sottoposti a redazione di atti, per cui chi ha avuto l'idoneità è passato e ha ricoperto la funzione. Ci sono stati anche altre persone, altri colleghi, altri avvocati che non hanno avuto questa idoneità e non sono stati, diciamo così, in grado di entrare nelle file della magistratura onoraria. Quindi è anche sbagliato quando si dice che è un giudice impreparato. Esatto. Noi veniamo dall'avvocatura. Esatto. Siamo avvocati prestati a questa funzione, prestati ahimè da anni. Alcuni di noi lavorano da oltre 25 anni in via esclusiva per lo Stato, perché è chiaro che chi lavora ogni giorno ha abbandonato la professione di avvocato, e quindi si lavora senza previdenza, senza malattia, senza aver avuto maternità, senza congedo parentale, per 4 soldi. Io vorrei che su questi 4 soldi, perché bisogna avere la giusta precisione nel dire a chi ci ascolta che cosa lo Stato in termini lordi riserva a chi fa il vostro mestiere, cioè c'ha il più della giustizia sulle spalle. Le cifre precise, perché parlano da sole, secondo me, dottoressa. Sì, senz'altro sì. Un giudice di pace guadagna ovviamente a sentenza, quindi se fa sentenze guadagna, se no non guadagna. E insomma è a cottimo e di media il giudice di pace guadagna sui 4.000 euro, ciò significa che ci sono uffici dove il giudice di pace ha poco lavoro e guadagna sui 1.200 euro. Altri uffici più grandi, tipo Roma, tipo Napoli, tipo Milano, che hanno grande mole di lavoro, dove il giudice di pace arriva a guadagnare anche sui 6.000 euro. Perché diciamo a sentenza quant'è? Allora, a sentenza si parla sempre di lordo, sì. Sono 56 euro lordi. 56 euro lorde a sentenza. Sì. Io non lo so, riflettete a casa, 56 euro lorde a sentenza. Mentre invece per chi va in udienza? Per chi ha l'udienza sono 36 euro, sempre lordi. 36 euro lordi a udienza, sì. Cari ascoltatori. Io non so, mi limito a dire, pensateci, perché 36 euro lordi a udienza e la cifra precedente a sentenza, lordi. Sì, lordi. Dovrebbero indurre a capire. A prescindere dalla durata, eh? Io certo. Ieri sono entrata in udienza penale alle 9, ne sono uscita alle 19. E ho guadagnato per l'udienza all'ordo 36 euro. 36 euro all'ordo. Ecco, a fronte di tutto questo, che cosa decide il governo per quello che riguarda la magistratura onoraria invece? Abbiamo chiesto perlomeno il versamento e il riconoscimento di indennità di previdenza, di malattia e quant'altro, è una giusta retribuzione. per noi giusta, diciamo così, rispetto ovviamente a chi fa il nostro stesso mestiere, cioè i magistrati togati, non arrivando a chiedere le somme che sono guadagnate dal togato, ma semplicemente una diciamo somme adeguate alla funzione, che ci diano la giusta indipendenza e la giusta serenità, ovvero di essere diciamo così paragonati al magistrato di tribunale che abbia passato la prima valutazione di professionalità. Tenga presente che noi di valutazioni di professionalità ne abbiamo passate già 5, certo, alcuni anche 6, quindi non chiedevamo assolutamente gli scatti diciamo così stipendiali che hanno i nostri colleghi togati. Ci siamo ben guardati, per carità, loro hanno fatto un concorso diverso ed è giusto anche che siano regolati, certo, in altro modo, ma avendo noi funzioni esattamente uguali, perché anche noi emettiamo sentenze in nome del popolo italiano e ne emettiamo, ahimè, in grandissimo numero, noi siamo un ruolo molto efficiente, in media noi facciamo, definiamo almeno una sessantina di procedimenti al mese, quindi capisce bene che alla fine dell'anno il nostro ruolo è veramente efficiente ed anche eccellente, perché i pochi appelli che abbiamo, perché io sto parlando del giudice di pace che ha pochissimi appelli, ci vengono nella stragrande maggioranza dei casi tutti confermati, vengono confermate le nostre sentenze. E quindi ecco qua, elevata ruolo, qualità, come si diciamo dal basso diciamo rateo. Proprio di sì. Anche perché non bisogna dimenticare che noi siamo soggetti a, così come i nostri colleghi togati, a corsi di formazione obbligatori. Certo. Per cui la formazione è identica. Ma il governo invece che ha deciso? Il governo, nonostante il Consiglio di Stato abbia dato la scappatoia da noi richiesta, cioè quella del decreto legge d'urgenza che fecero già nel 74 per i vicepretori onorari, che erano in ruolo da 15 anni e noi, ripeto, siamo da oltre 20 anni, e nonostante l'Europa, quindi nonostante tutto, ha deciso di fare un decreto attuativo che prevede la nostra permanenza per altri 3 quadrienni, oltre quasi in corso, quindi diciamo per 4 quadrienni, di cui uno già in corso, levandoci, io dico, quei 4 soldi che ci avevano dato, cioè mettendoci a 500 euro al mese, col raddoppio delle competenze, perché praticamente ci vogliono dare tutte le competenze che sono attualmente al Tribunale, tranne alcune materie, diritto di famiglia o in diritto di lavoro, che rimarrebbero al Tribunale. Quindi col raddoppio del lavoro loro ci darebbero 500 euro, senza darci previdenza, senza nulla, insomma. No, io euro. Devo dire la verità, leggendo io ero convinto di non aver capito. Sì. Cioè, nel senso che, no, nel senso che, cari ascoltatori, guardate, cioè, stiamo parlando di una cosa che ai miei occhi, non lo so, sarò evidentemente troppo profano, ma non riesco a trovare una correlazione di qualunque tipo tra le decisioni del governo e il ruolo che svolgete. Ma non è una critica politica, cioè io immagino che questo intervento abbia una logica dietro, poi ho approfondito e mi hanno spiegato, no, ma guarda, al di là degli oneri di finanza pubblica noi non possiamo pensare a un ruolo, a una messa in ruolo sia pure distinta e particolare, con il trattamento quindi retributivo distinto da quello dei magistrati togati, ma con tutte le coperture noi non possiamo farlo, però con questo intervento, questa è la tesi che mi è stata spiegata, di fronte al fatto che telefonavo, dicevo, ma mi spiegate questa roba, io non riesco a capirla, e mi detto, però noi abbiamo messo dei limiti all'esercizio della loro professione in maniera tale che possano esercitare, per integrare il reddito, la funzione di avvocato, quindi noi gli chiediamo, tutto sommato, possono concentrare le udienze in 2 giorni, per il resto hanno tutti i titoli e il modo per stare sul mercato e quindi dipendere meno, e quindi c'è la cifra che appare offensiva quasi data dallo Stato loro, però si integra col fatto che noi gli consentiamo di fare la libera professione e quindi di guadagnare molto molto di più. Questo è quello che mi è stato spiegato. Sì, il governo sa bene, perché è stato detto da noi a chiare lettere, che a 53 anni noi abbiamo ormai, avendo speso 25 anni per lo Stato in via esclusiva per la maggior parte di noi, su 1200 giudici di pace solamente 200 esercitano ancora in maniera veramente residuale, tutti gli altri hanno l'attività lavorato di avvocato. Da anni. Hanno lavorato da anni esclusivamente nel ruolo di magistrato onorario, anche perché in questi anni si è creato il sottorganico e il ruolo è stato fagocitante. Esatto. Cioè noi non esiste Pasqua, non esiste Natale, non esistono ferie, siamo sempre con i fascicoli in mano, sempre in turno di reperibilità, quindi loro sanno bene che pur concentrando le udienze, la mole di lavoro e di fascicoli sarebbe tale che noi, voglio dire, le sentenze si devono fare, si devono studiare. E quindi a quel punto uno bene. Lo fa a casa? Certo, la maggior parte del lavoro si svolge a casa. Ma soprattutto non è che uno si improvvisa ai clienti, visto che per 20 anni non l'ha fatto l'avvocato. Ormai abbiamo tutti quanti un'età per cui non è facile riaprire gli studi, è quasi anzi impossibile, anche perché dopo che si fa per anni questo lavoro, la mentalità che si matura, che si crea, la formazione, non è più quella di avvocato, ma veramente quella di giudicante. Quindi è per carità, è un'esperienza che va oltre, però voglio dire, non è facile e sarebbe impossibile per tanti di noi. Tra l'altro molti colleghi, soprattutto donne, sono in gravi difficoltà, perché avendo anche le famiglie magari affrontano malattie, insomma è tutta una situazione di vita creata su questo ruolo che dura da 25 anni, quindi non è che uno da 25 anni cancella tutto e si mette in gioco di nuovo, soprattutto in questo momento che l'Italia sta attraversando. Non è facile, io direi che non è possibile, ma soprattutto non è giusto perché noi abbiamo dato il fiore degli anni. Abbiamo consegnato allo Stato, lavorando sempre onestamente, in modo efficiente, per cui non si vede perché per tante categorie è stato possibile una sanatoria di ciò che lo Stato ha combinato, di situazioni che si sono ormai instaurate, e non si vede perché in questo settore della giustizia non sia possibile una sanatoria. Ma si parla della riforma magia. Allora, adesso vediamo un secondo, perché adesso abbiamo un minuto di pausa per informazioni di servizio sul traffico, poi torniamo. Io vorrei semplicemente che fosse chiaro a chi ci ascolta che questo intervento ha giudici che, ripeto, ci sono tutti i dati statistici di ogni circoscrizione, di ogni distretto giudiziario, del numero preponderante di sentenze emesso da chiamiamoli magistrati precari, senza mancare loro di rispetto, ma avete capito che è così, non c'hanno contributi, non sono, e questa cosa va avanti da decenni. Non lo so, ve ne cito alcune. A Messina, nel settore penale, il 65% delle sentenze sono scritte da loro, non dai togati ordinari. A Salerno il 44% e così via. Ecco, a questi il decreto delegato del governo dice: beh, adesso voi, insomma, sì, noi vi diciamo concentrate il vostro lavoro in pochi giorni, vi diamo 600-700 euro al mese. Allora, cari ascoltatori, giudicate voi, io non mi ci ritrovo. Ripeto, noi abbiamo avuto nel frattempo due infornate di sanatoria di docenti delle diverse graduatorie nella scuola, prima con la buona scuola, poi un primo concorso la scorsa estate, i cui ritardi vi abbiamo documentato e i cui insuccessi nel non superare le prove hanno purtroppo toppato rispetto al numero. È stato adottato per conseguenza di questa seconda cosa un concorso iper facilitato per non i già idonei, ma gli abilitati della scuola di tutto il resto delle graduatorie, che si terrà l'anno prossimo. Ecco, mi pongo il problema: perché così nella scuola, gli abbiamo detto oltretutto con la neoministra che si possono scegliere la cattedra vicino alla scuola e non dover rispettare l'anno e mezzo, i due anni iniziali in cui dovevano essere assegnati laddove c'era la domanda di cattedra dopo la messa in ruolo. Abbiamo fatto saltare ovviamente la retribuzione di merito per i dirigenti scolastici o di altri sindacati nel resto della scuola. Perché però per la scuola A e per i magistrati tra virgolette procari B, 600 euro al mese, niente contributi? Torniamo tra un minuto. Il la versione di Oscar. Allora, spero che vi abbiamo spiegato in termini comprensibili come di fronte a questo pezzo fondamentale che assicura lo svolgimento quotidiano e anche il recupero dei carichi pendenti della giustizia italiana, il governo dice no, noi siete precari, noi vi rendiamo occasionali addirittura, vi diamo ancora di meno e per il resto amici come prima. A questo punto voi decidete che tipo di agitazione, dottoressa Di Giovanni? Intanto adesso abbiamo proclamato un mese di sciopero, che è quello massimo, il periodo massimo che ci è consentito dal codice di autoregolamentazione dello sciopero. Sabato parteciperemo alla marcia che si farà a Roma, organizzata dal COA di Roma, ma anche dall'UNAGIPA, dall'ANGIPE e dalla Federmont, che sono le associazioni diciamo così storiche della magistratura. Ma col governo ci avete parlato, avete interloquito? Guardi, noi non riusciamo ad interloquire nonostante le nostre ripetute richieste da circa un anno. Sappia che noi ogni volta che proclamiamo lo sciopero, quindi avviene ogni mese, è previsto per legge che nella lettera la procedura di raffreddamento si apra con richiesta sì, di audizione urgente. Esatto. No, non esistiamo. Per no, il governo, voglio dire, ricordo invece agli ascoltatori che i sindacati hanno ottenuto una sindacalista della CGIL, ministra della scuola. Io lo faccio sempre per ribaltare, è lo stesso governo, lo stesso Stato, però le asimmetrie mi sembrano particolari, ecco, non voglio giudicarla, ma mi sembrano particolari. Ci abbiamo una telefonata, un ascoltatore, Francesco da Brindisi. Francesco, prego. Sì, da Ostuni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Guardi, direttore, io sono un avvocato del Libero Foro ormai da un po' di anni ed effettivamente diciamo posso confermare che senza la magistratura onoraria probabilmente la giustizia sarebbe totalmente bloccata, non si parlerebbe più neanche di giustizia. E come si spiega questo intervento? Agli occhi lei è un operatore di giustizia, se è proprio un avvocato, ma come ai vostri occhi come appare un intervento di questo tipo? Guardi, direttore, la questione è proprio una, nel senso che Orlando mi sembra che riesca più o meno sempre a scontentare tutti, cioè tanto gli avvocati, tanto i giudici onorari, tanto i magistrati togati, fatto salvo ovviamente il cosiddetti stati generali dell'esecuzione, tutti l'hanno continuamente criticato, ivi compresa l'Accademia. Io sinceramente ritengo aberrante che dei magistrati onorari, che sono sostanzialmente dei miei colleghi e che quindi magari hanno semplicemente passato la barricata per un bel po' di anni, possono ricevere delle retribuzioni così da fame, peraltro da avvocato e quindi diciamo da soggetto che deve sostenere ragioni di una parte, non mi sento neanche tranquillo del fatto che un giudicante possa guadagnare solo 5, 6, 700 euro, anche perché questo, direttore, me lo consentiranno diciamo i colleghi che fanno i giudici di pace, comunque li rende un po' più soggetti a rischi di corruzione, anche solo ipotetica. No, quindi, ma voglio dire, è una questione inaccettabile, 36 euro lordi la giornata di udienza, se non lo so, a me sembra una cosa fuori dal mondo, proverò a invitare qualcuno del ministero che ci spiega, però poi dopodiché riuscite a interloquire? No, da un anno no. Non lo so, io rimango senza parole, quindi ringrazio Francesco da Brindisi, ma un'altra domanda, mi scusi, dottoressa Giovanni, ci avrete provato al di là dell'indire eccetera e siete sempre rimbalzati su un muro di pietra? Assolutamente sì, assolutamente sì. È questo che più ci inorridisce, anche perché non è neanche giusto dire che è un problema della magistratura togata che vuole relegarci a tutti i costi perché siamo un pericolo perché siamo efficienti, costiamo poco. Anche perché ci sono stati 110 procuratori che hanno firmato un appello guidato dal procuratore capo di Torino Armando Spataro a vostro favore. Non solo, il dottor Spataro è ancora al nostro fianco, noi lo dobbiamo incontrare nella prossima settimana. Molti presidenti di tribunale sono io posso favore. Dire solo che a mio nome personale come Radio 24 un abbraccio solidale, perché le cifre sono tali, capite, 50 euro lordi a sentenza, io non lo so, mettetevi veramente, non lo so, mi sembra una cosa intollerabile accettare una cosa di questo tipo e per me è incomprensibile, perché prima che intollerabile vorrei capirla, però non riesco a capirla. E cari italiani, capite però che se avete procedimenti in corso e se adesso ci sarà un ritardo, c'è questo problema che vi abbiamo voluto spiegare, perché va avanti da decenni e non c'ha una risposta logica, con tutto che la finanza pubblica è ristretta, però non ce l'ha rispetto a quello che questi signori titolate donne fanno e rispetto alle 5 prove che hanno superato. Grazie alla dottoressa Di Giovanni, controllo sulla 24, appuntamento con me domani mattina, solo con me, non c'è Alessandro Milan, ma solo per domani, attenti alle 8:20 sulla 24.